Auguri, auguri a tutti gli ascoltatori di Radio Big World o all'ascoltatore del popolo di Barabba. Sono Stefania e sono appunto qui a Radio Big World. Sapete che il mio programma, il mio spazio è dedicato all'educazione e oggi mi piaceva parlare con voi di educazione in famiglia, soprattutto riferendomi all'educazione delle mamme verso i loro figli, perché sono loro quelle che danno l'impronta maggiore su quello che poi sarà la persona che andrà a popolare il popolo di Barabba oppure la persona che andrà a popolare quelli pensanti. Anni fa ero iscritta all'università in scienza dell'educazione e della formazione primaria a Siena e il rettore mi affidò un ragazzo da sostenere nello studio, perché un ragazzo ritenuto che aveva un handicap. Mi dissero che non poteva scrivere, non poteva prendere appunti, oltre ad essere un ragazzo molto ansioso. Ma io accettai veramente molto volentieri, non solo, mi davano anche una gratifica, quindi non solo per questo, ma soprattutto perché insieme a lui avrei potuto studiare anch'io e poi l'esperienza che avrebbe sicuramente accresciuto il mio percorso. E quindi inizio a studiare insieme a lui e mi accorgo che non riusciva a scrivere. Le sue mani erano piccole, erano mani come se non avessero muscolatura. Non mi soffermai su questo aspetto, il mio compito era quello di studiare insieme, di prendere degli appunti e di arrivare a fargli dare degli esami. Si studiava psicologia generale. Dopo 4 mesi arrivò il momento in cui lui doveva sostenere il suo esame. Quindi le solite raccomandazioni. E il giorno dell'esame lui andò ad Arezzo, perché si studiava al Pionta, a sostenere il suo esame. Poi nel primo pomeriggio mi telefonò e mi disse: ho sostenuto l'esame, è andato tutto bene, ho preso 26. Beh, io ero davvero tanto contenta, perché insomma 26 psicologia generale non era un brutto voto. Il giorno dopo, il giorno seguente, ci siamo rivisti per iniziare, diciamo così, avevo già preparato il programma per iniziare a studiare didattica generale, quindi ci siamo visti e lui, nel ripetermi che aveva preso 26, gli vidi un po' le guance arrossate. Insomma, lì ho percepito che non me la diceva tutta, c'era qualcosa che ometteva. Quindi sono andata a fondo facendogli delle domande e ho notato che a fargli delle domande diventava sempre più nervoso. Alla fine, in un dirotto pianto, mi dice che lui non aveva sostenuto l'esame, che non era in grado perché lui non era capace a fare niente, che si vergognava, che aveva paura, che non sapeva come fare. E questo praticamente lì per lì mi paralizzò, perché questo aspetto oggettivamente non era mai emerso. Anzi, era un ragazzo che studiava e ripeteva e interiorizzava i concetti che studiava e me li ripeteva anche in maniera molto personale, quindi con un linguaggio appropriato. Questo aspetto mi era veramente sfuggito. Quindi cercai di fargli altre domande e mi disse perché mi aveva detto una bugia del genere. E la sua risposta fu: ma io la mia vita è costellata di bugie, perché sono quelle che mi difendono. Ti difendono da che cosa? Mi difendono dall'oppressione della mia mamma. Questa per me fu una cosa incredibile, perché cioè per la prima volta mi si apriva un mondo a me ancora molto sconosciuto. Sapevo in teoria che l'educazione dei genitori, l'educazione della mamma è primaria, no? Per lo sviluppo intellettivo e fisico di un bambino. ma ecco, mi limitavo a sapere questa teoria e invece ora avevo a che fare con un prodotto di un amore malato. Oi oi, mi venne da dire. I nostri incontri quindi cominciarono a non essere più incontri solo di studio. Sì, studiavamo, però insieme allo studio c'era anche un po' di, come dire, confessioni, chiamiamole così. Io mi limitavo ad ascoltare, chiaramente. Qualche volta facevo anche qualche domanda. Insomma, per farvela breve, lui dette l'esame poi di psicologia generale, perché ce lo accompagnai io, dette l'esame e preso un bel 28, e questo è stata una conquista meravigliosa. Lui, quando uscì di lì, era, non vi dico la gioia di questo ragazzone, era un ragazzo incredibile. Aveva un piccolissimo difetto fisico, aveva una gamba leggermente più corta rispetto all'altra, ma era qualcosa che, insomma, passava inosservato. Questo ragazzone così felice. E usciti da lì in macchina, mi confessò delle cose che veramente mi sono rimaste poi nella testa, nel cuore. Che a 19 anni la sua mamma non gli faceva fare praticamente niente, non lo faceva vestire da sé, gli faceva il bagno e poi glielo faceva la mamma, gli metteva l'accappatoio, lo metteva nel letto come se fosse un neonato per imborotarcarlo, non gli faceva allacciare le scarpe. Ecco perché queste mani erano così prive di muscoli, perché non facevano niente, non gli faceva fare niente, perché aveva paura che il suo figlio facesse le cose sbagliate, e allora gliele faceva lei per lui. Ecco, questa cosa mi ha fatto davvero tanto riflettere su come una mamma può condizionare la vita di un figlio, perché sicuramente lui avrebbe avuto bisogno di un supporto nello studio, probabilmente, non lo so, ma se avesse avuto una mamma più attenta, un amore non malato ma un amore sano, una mamma che non vedesse quel piccolo difetto fisico ma che vedesse le qualità del figlio, invece la mamma si vergognava di quella gambetta leggermente più corta, se lo avesse amato per quello che era, un ragazzo meraviglioso, probabilmente non sarebbe arrivato a quei livelli. Insomma, io spero, lui ha continuato a studiare, abbiamo continuato a studiare insieme, lui ha dato sempre gli esami, però lo dovevo accompagnare. Ha iniziato ad allacciarsi le scarpe da sé. Ci ho messo una settimana buona, ma insomma ce l'ha fatta, si allacciava le scarpe da solo, si metteva il giubbotto da solo, almeno l'ultima volta che ci siamo visti erano queste le novità, e lui con me non ha più detto una bugia. Non so se ha continuato a dire bugie alla mamma, credo di sì, perché ho avuto modo di parlare con la mamma, ma una donna completamente persa nel suo ruolo di tutto fare, di sottomettere il figlio a quelle che erano le sue necessità. E quindi credo che con la mamma abbia continuato, però so che oggi lavora e quindi è autonomo, e spero tanto per lui che si sia trovato anche una casa per conto suo e che sia venuto via da quella famiglia. Questo per dirvi quanto l'amore di un genitore, in questo caso di una mamma, può davvero tanto influire, se quest'amore non è un amore libero, non è un amore, come dire, nell'attenzione della persona che hai davanti. Tu hai davanti una persona indipendente da te e la devi rendere indipendente. Si ama ciò che riusciamo ad allontanare da noi, non ciò che vogliamo trattenerci, perché quello è solo egoismo. E questa mamma, purtroppo per lei, perché sicuramente anche lei ha avuto un'educazione molto particolare, quella mamma era un amore, non era amore, insomma, era un'altra cosa, non certo amore. Ultimamente ho visto un film molto bello che consiglio a tutti i genitori, a tutte le mamme di andarla a vedere, no, a tutti i genitori, Wonder, è uscito di recente nelle sale cinematografiche, è un film che mette in evidenza quanto un amore sano e quanto un amore malato possano fare la differenza. Ecco, io vi lascio con questo e vi auguro ancora buon anno.